Il punto di Stefano Folli. Il colloquio del Presidente della Repubblica con il direttore del Sole 24 Ore segnala una preoccupazione per nulla infondata in questa fase convulsa della campagna elettorale. Napolitano teme che la stabilità della Banca d'Italia possa essere in qualche modo compromessa nel fuoco delle polemiche, che la questione del Monte dei Paschi con tutti i suoi interrogativi finisca al centro delle discussioni politiche è non solo inevitabile ma anche opportuno. Che nel frullatore si voglia mettere la Banca d'Italia è invece un atto di autolesionismo, a meno di non individuare specifiche e gravissime responsabilità che nessuno finora ha saputo indicare. Quindi attenzione, fa sapere il Quirinale, la stabilità è un bene prezioso per la nostra economia e il nostro rapporto con l'Europa. Con la stabilità tutto è possibile, senza l'Italia rischia di compromettere tutto.